Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Le ultime settimane, le notizie delle ultime settimane sul fronte delle società italiane sembrano arrivare da un bollettino di guerra oppure addirittura da un film d'azione. Tangenti in Algeria, elicotteri in India, tangenti, mazzette e poi ancora avvisi di garanzia, perquisizioni, fermi, arresti, naturalmente tutto questo comincia a diventare un contesto che non può lasciare indifferente il piccolo risparmiatore che investe in borsa, da Monte dei Paschi a Finmeccanica, da Eni a Seat Pagine Gialle, fino ad arrivare a casi più piccoli come quello della Popolare di Spoleto. E con un'occhiata anche all'estero, alle vicende olandesi, anche lì una banca non sta vivendo proprio un momento facile, scopriamo che qualche risparmiatore è coinvolto anche in questa vicenda. Questa mattina a Salva Danaio cerchiamo di fare chiarezza su tutto e di rispondere alle vostre domande, le vostre curiosità. Settimana scorsa abbiamo intitolato Salva Danaio i casi caldi della settimana, a questo punto dobbiamo cambiare aggettivo e definirli casi incandescenti. In tutto ciò non possiamo limitarci agli aspetti di cronaca, la questione è che tutto quello che sta accadendo ora sta di nuovo cambiando, o almeno rischia di farlo per l'ennesima volta, il rapporto tra piccolo risparmiatore ed intermediario finanziario e consulente per i propri investimenti. E questa è la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore, appunto, di domani. Con noi quest'oggi Valeria Novellini, analista dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore. Valeria, buongiorno, bentornata. Buona giornata. Ma con te sta diventando un appuntamento fisso, quello del venerdì, quindi una buona chiusura di settimana, non tanto per la borsa. Moria Longo del Sole 24 Ore, bentornato anche a te. Buona giornata. E bentornato anche a Vitaliano D'Angerio, Plus 24. Buongiorno a tutti. Oggi la squadra è tutta praticamente aziendale, potrei dire, se può piacere questo termine. Vogliamo però sentire anche le vostre considerazioni. 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook il nostro profilo è salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Quali dubbi vi sorgono ascoltando le ultime notizie sui mercati? C'è qualcosa che vi preoccupa in modo particolare o che vi incuriosisce in modo particolare? Condividete con noi il vostro pensiero, insomma ci farà piacere. Intanto vediamo un po' cosa succede in borsa stamattina. Una giornata senza infamia e senza gloria, borse poco mosse. Francoforte in questo momento è la peggiore, perde lo 0,22%, Milano meno 0,17%, Londra meno 0,05%, Parigi meno 0,07%. Mercato non prende una direzione precisa, per la verità nelle ultime giornate la partenza è sempre stata così, poi la direzione più precisa è arrivata nel pomeriggio. Sta iniziando il G20 di Mosca, ci sono già state le prime dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, avete sentito che ha rilasciato dei commenti anche un po' indispettiti sulla questione della guerra valutaria, della quale si sta parlando tanto. Lui dice: non vorrei che si rischiasse un risvolto controproducente se appunto enfatizziamo questa tematica, però insomma di fatto lo sappiamo bene che il Giappone sta facendo di tutto per rendere la sua economia più competitiva, facendo leva chiaramente sulla divisa che si sta indebolendo nei confronti di tutte le altre monete internazionali. Anche il dollaro non è che si comporti molto meglio, l'euro in questo momento sul biglietto verde vale 1,33,31, borse poco mosse, dicevamo. I temi del giorno a Piazza Affari, guarda un po', sono proprio quelli dei quali parleremo per tutta la puntata. Eni ha comunicato i suoi conti questa mattina, più 2,77%, più che i conti, comunque il 2012 che si chiude con un utile netto di oltre 7 miliardi di euro, il tema è che il gruppo riesce a permettersi ancora la distribuzione di un dividendo, 1,08 euro per azione, di cui 54 centesimi già distribuiti come acconto, ed è anche un po' più alto di quello distribuito nel 2011. Eni permette anche un recupero a Saipem, più 0,8%, protagonista degli scambi in termini negativi un paio di settimane fa per il famoso allarme utili lanciato appunto dal gruppo, e oggi, tanto così per non farsi mancare nulla, Finmeccanica torna a perdere il 2,88%, male anche Telecom, meno 2%, anche qua tante notizie da raccontare, tra queste anche la vendita della 7 che non riesce ancora ad essere finalizzata, e poi Monte dei Paschi meno 1,70%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2%, che più ne ha più ne metta per le banche oggi, nuova giornata. negativa. Sentiamo però intanto nella nostra scheda, preparatevi perché è una scheda molto divertente, quella che ha preparato il nostro Marco Lombardo e insieme a Gianmarco Ferronato, sentite un po' cosa è successo negli ultimi giorni nella finanza italiana. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia-cia-cia. Non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Altro che cia-cia-cia. Sono settimane ormai che la borsa di Milano balla e traballa sulla scia di notizie, scandali, indagini, perquisizioni che stanno coinvolgendo in vario modo molte delle più importanti società. Tante le vicende calde, anzi a dir poco scottanti, che si stanno susseguendo in questi giorni, a partire dal caso MPS, dove non sembrano ancora essere finiti gli scheletri nell'armadio. Nuovi avvisi di garanzia sarebbero in arrivo per l'ex direttore generale Antonio Vigni e l'ex presidente Giuseppe Mussari, per ostacolo alla vigilanza, relativamente alla complessa operazione sui derivati finita sotto la lente della procura. Nel frattempo, ieri, è stato fermato dalla Guardia di Finanza nel suo appartamento a Milano Gianluca Baldassarri, indagato per truffa e associazione a delinquere in uno dei filoni dell'indagine. La nuova entrata più rilevante della settimana è senza dubbio Finmeccanica, sotto i riflettori da martedì, quando è arrivata la notizia dell'arresto dell'amministratore delegato Giuseppe Orsi, accusato di corruzione internazionale, concussione e peculato per le presunte tangenti che sarebbero state pagate per la vendita di 12 elicotteri al governo indiano. Continuano a non riprendersi del tutto Eni e Saipem, dopo che l'amministratore delegato del cane a sei zampe, Paolo Scaroni, è finito al centro di un'inchiesta della Procura di Milano e della Guardia di Finanza per una maxi tangente pagata ad esponenti del governo algerino. SEAT continua ad accumulare sedute in rosso. Il mercato non sembra credere alla possibilità che un soggetto imprenditoriale venga in soccorso delle pagine gialle. Chiudendo il cerchio e tornando alle banche, c'è anche un caso internazionale, quello dell'olandese SNS, nazionalizzata lasciando a bocca aperta e a mani vuote molti investitori, dopo che lo Stato olandese ha deciso di espropriare tutte le obbligazioni subordinate. A casa nostra troviamo la Popolare di Spoleto, commissariata da Banca Italia dopo circa 2 anni di braccio di ferro con l'istituto che continuava a mostrarsi ingovernabile per via dei nodi irrisolti nella governance e della quota scottante, da rilevare, di un socio divenuto scomodo. Guarda caso, MPS. Cavolo, che difficile. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca, Ilva, Snia Viscosa, Falker, Mianca, Italgas. E l'abbiamo voluto ascoltare tutta perché veramente il cia-cia-cia della borsa è strepitoso e abbiamo lasciato, non so se ci avete fatto caso, in coda anche l'espressione della nostra Alessandra De Luca, che è la nostra speaker, che dopo questa scheda era distrutta ieri pomeriggio, quindi ha detto mamma che difficile, ha detto, avrebbe potuto utilizzare anche altri termini, però insomma la cronaca non ci manca. Abbiamo voluto un po' alleggerire anche questo argomento con una musica divertente, se non ci fosse da piangere effettivamente. Allora, da che cosa cominciamo? Il tema grosso, Valeria, inizio con te, della settimana è stato Finmeccanica, no? L'arresto del numero uno, del presidente Orsi, e anche tutti i commenti che sono stati fatti relativamente a questi grandi gruppi internazionali che operano nello stesso settore, stesso argomento che avevamo toccato anche con Saipem la scorsa settimana. Pare che insomma per lavorare sui mercati bisogna effettivamente facilitare i percorsi, le trattative con tanti governi complicati, democraticamente parlando poco aperti, e insomma per agevolare certe pratiche, certi contatti economici, la mazzetta sembra un po', come dire, abbastanza consueta in giro per il mondo. Detto questo, non si può naturalmente chiudere gli occhi di fronte a tutto questo, e Orsi, poi vedremo se la magistratura dimostrerà la sua colpevolezza o meno, però insomma questo è un grande gruppo internazionale. Certamente, potrei dire la settimana degli Orsi, perché oltre a Orsi di Finmeccanica, recentemente appunto arrestato per nota vicenda in India, ricordiamo che sono stati sospesi i pagamenti per gli elicotteri indiani, mm-hmm. e si teme non anche è stato ancora annullato questo contratto, ma sospeso. E si teme anche possibilità di ovviamente minori successi in ulteriori commesse, non solo in India ma anche in altri paesi. Ma un manager di cognome Orsi, nessuna parentela, è stato al centro anche della vicenda Saipem, perché è quello che ha fatto partire le indagini sulla possibile coinvolgimento di Scaroni nelle mazzette, mm-hmm. per il caso Saipem in Algeria. Quindi Orsi dal punto di vista orsistico, Orsi dal punto di vista del cognome. Però per quanto riguarda in particolare sia Finmeccanica che Saipem, diciamo che il problema è che forse è vero, nel senso che quando si fanno trattative, soprattutto in settori delicati come quelli del petrolio per Saipem e delle armi e comunque forniture militari, difesa per Finmeccanica, soprattutto in certi paesi, diciamo che se non le vogliamo chiamare mazzette, le vogliamo chiamare intermediazioni commerciali, esatto. Ecco, purtroppo si tratta di una consuetudine. Con tutto il fatto che la moralizzazione è necessaria, il problema è che non possiamo garantire per ciò che faranno i rivali di Saipem e Finmeccanica in questi paesi, perché se questi, e sono gruppi grandi, gruppi internazionali anche loro, se questi si comporteranno in maniera scorretta, questo noi non lo possiamo sapere, questo purtroppo almeno a breve può voler dire minore competitività. Tu sei un analista finanziario, Valeria, poi faccio intervenire anche gli altri ospiti su questo argomento. Il titolo sta continuando a perdere, 4 euro, qual è un prezzo corretto per questa società quotata tra le big di Piazza Affari? Diciamo che ha perso abbastanza secondo te? Diciamo che il problema, ripeto, non è tanto il prezzo, teoricamente anche questo potrebbe essere un buon livello di prezzo, ma se, come vi dicevo, adesso Finmeccanica presenta dei multipli inferiori a quelli della concorrenza, ma questa concorrenza però è in questo momento favorita per l'ottenimento di nuove commesse, ecco che tutto diventa relativo. Ho qualche dubbio però che queste commesse siano state ottenute con criteri diversi da quelle delle società italiane, no, però nei rispettivi paesi evidentemente queste società non hanno gli stessi fanali puntati addosso dalla magistratura? Assolutamente no. E ormai si stanno inseguendo le voci più incredibili su Finmeccanica, tra cui la possibilità che possa essere ceduta o intera società o la quota comunque in mano al tesoro, ma è evidente che a questi prezzi comunque si svenderebbe. Mm-hmm. Per cui secondo me la cosa è poco probabile. Bisognerà vedere come si riesce a portare avanti la governance in maniera adeguata senza troppo penalizzare la competitività. Il gruppo ha avuto il rinnovo del consiglio di amministrazione 2 giorni fa. Vedevo Maria Longo che un po' scuoteva la testa su quello che dicevamo, su quali aspetti non sei d'accordo. Non sono molto d'accordo. Le tangenti sono un reato internazionale punito in tutti i paesi dell'OCSE. Le tangenti internazionali sono punite. Non è che in Italia li puniscono di più che in altri paesi. No, vabbè, primo. Ma non è che secondo qua si parla anche di soldi tornati, almeno questa è l'ipotesi, soldi tornati in Italia usati per pagare italiani, non indiani, per avere commessa. Quindi diciamo che la cosa è grave. Io non credo che sia l'inchiesta che mina la competitività del sistema Italia, io credo che sia la corruzione che mina la competitività del sistema Italia. Questa è la mia opinione. Benissimo, no, ma ti ringraziamo per averla condivisa con noi. Però di fatto, insomma, in tutto questo Vitaliano D'Angerio, chi aveva puntato magari con una piccola quota del proprio portafoglio su questo titolo, proprio per il fatto che magari, visto che lo spingiamo anche tanto a volte questo discorso, una bella società che ha una grande vocazione e proiezione internazionale, magari può qualche volta attutire i colpi di crisi domestiche, no? Finmeccanica può rappresentare come altri colossi un'opportunità in questo senso, invece viene colpita per altre vicende. Leghiamoci anche alla vostra inchiesta, sì, su Plus 24. Vedrei anche un altro aspetto della vicenda, è proprio la fiducia degli investitori nel nostro sistema, stranieri ma anche e soprattutto italiani, no? Piccoli risparmiatori che hanno investito anche in queste società via fondi o direttamente, cosa possono pensarne, soprattutto quando in un paese come il nostro processi sono molto molto lunghi, ma soprattutto non c'è certezza né della pena né del diritto, ma soprattutto della pena. Faccio un esempio che poi fanno un po' gli esperti che rispondono alla nostra richiesta di Plus 24 di fare delle proposte concrete per ridare fiducia. Dice Zingales, ma lo stesso anche Guiso, dicono: ma in America un Madoff che ha fatto un crack da 50 miliardi oggi è stato condannato a 150 anni di carcere dopo 2 anni dal crack, no? Mm-hmm. Dopo 2 anni del crack. E in Italia abbiamo ancora persone a piede libero che hanno fatto, forse non a questi livelli, ma insomma crack simili. E a questo punto la fiducia dell'investitore non c'è, anche dall'estero. Cioè, nel momento in cui io vedo che in un paese c'ho a piede libero gente che ha truffato, mm-hmm. fatto crack dal 2001 a oggi, ma perché dovrei investire in questo paese? Certo, poi tante volte, mentre è molto facile ricondurre anche queste considerazioni, che ne so, alle grandi società finanziarie, in realtà abbiamo visto che protagonisti di grandi bancarotte sono anche manager che operano e che conducono, guidano società appartenenti a tutt'altro settore. Adesso mentre parlavo mi veniva in mente il gruppo Mariella Burani, voglio dire, parliamo della moda, di un settore che è un vanto del Made in Italy italiano, invece anche lì scopriamo gestioni allegre appunto di queste aziende quotate peraltro, e quindi anche lì capiamo che i controlli sono molto difficili da effettuare. Cosa è successo invece alla Popolare di Spoleto, per andare ad un piccolo caso? Valeria, mi vuoi delucidare tu? È successo che la banca è stata commissariata e che, diciamo, al momento la situazione è questa, e per cui di conseguenza anche le quotazioni, che comunque erano sporadiche, diciamo, in borsa, non era un titolo trattatissimo, ne hanno ovviamente risentito. Con questo, come già avevamo già detto per il Monte dei Paschi, per i risparmiatori che hanno il conto corrente lì, vale la solita garanzia del fondo di tutela, fino a 100.000 euro per quanto riguarda il saldo del conto. A parte che corrente. Il commissariamento significa garantire la prosecuzione dell'attività, sì, aziendale. Sì, certamente, non è che in questo mm-hmm. senso significhi un fallimento. Diciamo che, come al solito, i veri problemi non sono per chi ha il conto presso la banca, ma sono per chi eventualmente avesse azioni o obbligazioni emesse da questo istituto, con le azioni chiaramente in una posizione più rischiosa. Leggo peraltro che è per la seconda volta nella sua storia che il consiglio di amministrazione di questa banca viene sciolto su sì. indicazione, diciamo, della che Banca d'Italia. Ci sono sempre stati problemi piuttosto consistenti di governance, e per cui questo è un caso piccolo, chiaramente non è il Monte dei Paschi, però è un caso che si trascina la problematicità da parecchio tempo. E certo, la fiducia nei confronti della banca Vitaliano D'Angerio adesso è il tema all'ordine del giorno un po' di tutti noi, probabilmente anche alla luce di tutto ciò che si legge ogni giorno, probabilmente chissà quante persone si stanno ponendo questo tema in questo momento. Rimango lì, che cosa faccio? Cambio banca, ma quella dove vado è sicura? Lo diceva già la collega Novellini, cioè lì c'è il fondo di garanzia, quindi, e poi da quello che mi risulta una banca non può fallire, no? Mm-hmm. Lo dicono ormai da quando è che lo diciamo? No, dopo Lehman Brothers adesso ci pensano due o tre volte. Quindi prima. Là, su questo c'è, come dire, c'è garanzia. Detto questo, io più che banca mi preoccuperei di quello che vendono le banche ai risparmiatori, a cosa collocano. Perciò una delle, per esempio, delle proposte che vengono fatte appunto dagli esperti, professori che abbiamo detto, è trattare i prodotti finanziari venduti in banca come dei farmaci. In America c'è adesso non ricordo il nome dell'authority, ma anche in Italia, prima di vendere un farmaco in farmacia deve essere testato. Forse la Food and Drug Administration. Sì, perché se questo farmaco mi fa del male, io non lo posso vendere. E la stessa cosa vale per i prodotti finanziari. Io prima di mettere un prodotto finanziario in commercio devo testarlo, devo sapere se questo è tossico. Infatti poi parliamo di titoli tossici, no? Perché se è tossico io non lo vendo. Uh-huh. E quindi l'Authority, Consob o Banca Italia, prima di dare un'autorizzazione, o meglio, diciamo che a livello europeo adesso deve essere autorizzato, no? Però io Consob, io Banca Italia, anche se devo per forza mettere in commercio perché l'Europa me lo impone, posso fare come le sigarette, no? Nuoce gravemente al risparmio. Uh-huh. Questo non mi possono vietare di farlo. E almeno tuteliamo le persone che adesso sono... un pochino, però con la MiFID magari le banche ritengono di potersi tutelare. Se uno fa un investimento che magari non è corrispondente al proprio profilo di rischio già individuato dalla compilazione di tutti i questionari della MiFID, la banca è obbligata a dirti: guarda, questo investimento non è coerente con le tue caratteristiche. Moria, vuoi intervenire tu su questo aspetto? Io sono perfettamente d'accordo con l'italiano. Il problema, secondo me, a volte non è soltanto nella tossicità dei titoli, ma anche nel loro prezzo a cui vengono venduti. Cioè, ci sono bond emessi dalle banche collocate alla clientela che hanno rendimenti molto più bassi rispetto a quelli dei BTP. Allora, i titoli bancari di per sé non sono tossici, sono titoli normali a tasso fisso, non c'è nessun problema nel comprarli. Il problema sta che se gli interessi che mi pagano questi titoli sono più bassi rispetto a quelli dello Stato, che paga lo Stato, e quindi io primo avrei più interesse a comprare un BTP rispetto al bond della banca. Secondo, la banca solitamente più rischiosa dello Stato nel quale vive. Quindi io come cliente non ho nessun interesse a comprare quei titoli, eppure le banche li collocano proprio col badile e la gente li compra, perché giustamente la gente tutti devono essere per forza esperti di finanza, si fidano solitamente dello sportellista. Quindi non è soltanto, secondo me, un problema di tossicità di titoli, ma il problema principale sta nel pricing, nel loro prezzo. Mi piacerebbe proprio sapere come questi 500 italiani si sono trovati in portafoglio delle obbligazioni subordinate di questa banca olandese SNS, che è stata nazionalizzata negli ultimi giorni. Ne parliamo dopo il nostro primo blocco pubblicitario. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Vedo che stanno arrivando tante considerazioni sulla questione morale in Italia legata al tema della corruzione che affrontavamo prima, e poi c'è chi ci chiede anche la situazione. Veramente vedo che qualcuno mi ha scritto, poi forse conoscendo le mie origini marchigiane qualcuno pensa che io conosca qualcosa in più. Non è così. La situazione di Banca Marche, che non è quotata, però sta vivendo una situazione un po' complicata. In realtà la banca è pienamente operativa, ha registrato la prima perdita della sua storia nell'ultimo esercizio di bilancio. È però oggetto anche questa banca di un'ispezione della Banca d'Italia, che va avanti dallo scorso settembre, e probabilmente anche lì forse Banca Italia starà dicendo: sarà il caso di cambiare i vertici. Un ricambio c'è già stato, però insomma questo è quello che sta succedendo, che per la verità succede in tante altre banche italiane, ma non sempre queste notizie di azioni ispettive balzano alla ribalta della cronaca, perché sono anche normali attività della Banca d'Italia. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca, Ilva, Snia, Viscosa, Falker, Mianca, Italgas. Vabbè, il cia-cia-cia della borsa ormai è mitico. Tutti invidiosi colleghi che loro scrivendo non possono utilizzare queste divertenti colonne sonore delle quali possiamo beneficiare solo noi questa mattina. Valeria Novellini, Moria Longo e Vitaliano D'Angerio, tutti i colleghi delle Sole 24 Ore, per discutere e commentare insieme a voi i casi di borsa della settimana, che hanno preoccupato anche non poco molti piccoli risparmiatori. E una volta c'è una banca che rischia di fare crack, insomma, all'interno dei quali i vertici manager non si comportano correttamente, tutti si spaventano, le azioni tracollano, e dobbiamo riparlare del fondo interbancario di tutela dei depositi e le società che vengono accusate di pagare delle mazzette sui mercati internazionali per ottenere delle commesse degli appalti. Insomma, qua non ci si capisce più niente, non si sa più come investire bene il proprio denaro, per chi anche volesse puntare sulla borsa, che tra l'altro sta anche recuperando molto bene, e parlo di Piazza Affari così come anche dei mercati internazionali. Insomma, come ci si comporta, come ci si interfaccia in questo momento anche con il proprio consulente, perché io immagino anche Vitaliano D'Angerio che sudori freddi avrà un promotore finanziario, un consulente che magari ha anche suggerito qualche posizione su questi titoli. Però, ma in questi casi loro cosa ci possono fare? Adesso non voglio essere difendere, però insomma no, però qualche volta poveretti anche loro. Sì, ma lì c'è un discorso di diversificare l'investimento, quindi può capitare che un'azienda finisca sotto inchiesta, quindi nel momento in cui c'hai un portafoglio ben diversificato, tanto più con dei fondi e non comprando direttamente delle azioni, tendenzialmente dovresti stare abbastanza tranquillo. Allora, spostiamoci dall'Italia. Vi leggo l'incipit di una lettera. Caro Mr. Rab, mille grazie per il tempo speso per discutere con noi. Apprezziamo molto lo sforzo profuso dal suo team per trovare investitori privati in grado di ricapitalizzare SNS Bank in modo da evitare la nazionalizzazione. Chi ha scritto questa lettera il 31 gennaio? Moria Longo, e cosa è successo il giorno dopo? Questa lettera l'ha scritta il fondo di private equity CVC, che insieme ad altri investitori voleva acquisire la banca SNS Bank, che è la quarta banca olandese. Aveva fatto un'offerta, era da un paio di mesi che trattava col governo, aveva migliorato due volte l'offerta, tra l'altro il governo avrebbe speso molti meno soldi rispetto alla nazionalizzazione. Questa lettera arriva il 31 gennaio, il 1 febbraio il ministro delle finanze olandese, che tra l'altro è il nuovo presidente dell'Eurogruppo, annuncia la nazionalizzazione della SNS Bank. ed è un annuncio abbastanza curioso, particolare, perché di banche nazionalizzate ce ne sono state tantissime in Europa. In Olanda, ahimè, hanno cominciato presto con la crisi, perché ING è stato uno dei primi massicci interventi sul mercato europeo. La cosa particolare è che per la prima volta, quanto mi risulta, il ministro ha disposto l'esproprio di tutti i titoli obbligazionari subordinati. Voleva espropriare anche i titoli senior, quindi le obbligazioni normali. Poi quello ha desistito, e questo lo scrive lui in una lettera al Parlamento, ha desistito perché temeva contraccolpi poi sui mercati, cioè poi la gente scappa da tutte le obbligazioni. Che differenza c'è intanto tra le due tipologie di bond? Lo abbiamo ricordato tante volte, ecco, ma nella fase di restituzione di questo denaro ai sottoscrittori, questi sono quelli che hanno meno... Sì, allora le obbligazioni subordinate, che ce ne sono di vario tipo, sono quelle che si collocano un po' a metà strada tra le azioni e le obbligazioni. Le azioni sono capitale di rischio, quindi chi compra azioni diventa... tra virgolette proprietario, esatto, di una piccola quota. Esatto, e se ne assume tutto il rischio, ecco, di questi investimenti. Il rischio di impresa. L'obbligazione è un prestito, un finanziamento, quindi se la società a cui si presta i soldi va in fallimento, il curatore fallimentare dismetterà gli asset, gli attivi, e poi darà ai creditori quello che si ricava. Le obbligazioni subordinate sono a metà strada, hanno caratteristiche simili alle azioni e in parte simili alle obbligazioni, servono in parte per costituire capitale, comunque i vari capitali della banca, il Tier 1, il Core Tier 1 e così via, e in caso di fallimento della banca in questione vengono rimborsati dopo le obbligazioni senior con una scala ben precisa nell'ordine delle prelazioni, quindi prima vengono rimborsati gli obbligazionisti, o meglio prima ancora i creditori privilegiati, dopodiché gli obbligazionisti senior, che non sono garantiti ma comunque sono, diciamo, senior, sono i più forti, e dopo tutte le obbligazioni subordinate e infine le azioni. Poi ovviamente siccome in un fallimento non ci sono mai soldi, soltanto i senior prendono solitamente una quota e tutto il resto non con questo nulla. Esproprio del governo olandese, ecco, il governo dice io non rimborso più, scordatevelo. No, non solo non dice non rimborso più, ha proprio espropriato i titoli, è una cosa nuova, curiosa, perché solitamente si propone un haircut cosiddetto, si propone un taglio anche molto consistente, perché ripeto, le obbligazioni senior e le obbligazioni subordinate sono più rischiose, quindi è giusto che subiscano dei danni maggiori in caso di difficoltà di una banca rispetto alle obbligazioni senior, ma qui si è proprio espropriato, cioè il titolo lo Stato dice non è più tuo, punto, finito, chiuso, arrivederci, ci sarà un indennizzo, ma lo Stato ha già detto, il ministro stesso ha detto che sarà zero. Per cui chi aveva questi titoli si è trovato niente in mano, cioè gli è stato espropriato come ti possono espropriare un terreno per fare un'autostrada. E tra questi ci sono anche 500 italiani che io chiedo come si siano potuti ritrovare in portafoglio. Ma una banca io di alcuni ne ho, con alcuni di questi ho parlato. Un'obbligazione di una banca olandese, ho detto il contrario. Con alcuni di questi ho parlato e poveracci, questi qua mi dicevano che compravano titoli di una banca olandese proprio perché l'Olanda è un paese solido e quindi volevano diversificare dall'Italia. E a volte la vita è veramente ironica. Il problema è che alcuni di questi hanno investito tanti soldi e gran parte del proprio patrimonio, ed è il solito problema, diceva adesso Vitaliano D'Angelo, sulla diversificazione, che è un buon costume ma molto spesso non si applica. Valeria, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo aggiungere una cosa, visto che parlavamo prima della MiFID, dei livelli di rischio, attenzione, perché questi livelli di rischio che vengono indicati dalla MiFID non è che sempre a uno viene attribuito un elevato rischio se è un risparmiatore prudente e improvvisamente si vuole comprare le obbligazioni sul marmo del Perù. No, attenzione che per esempio anche una persona con profilo elevato, se per esempio investe tutto in titoli di Stato di un unico paese, parlo dell'Italia ma di qualunque paese, anche della Germania, gli viene indicato uno sforamento di livello di rischio, perché teoricamente è migliore la diversificazione. Dopodiché se questa persona in realtà nella diversificazione ci piazza le obbligazioni del marmo nero del Perù, paradossalmente risulta meno rischiosa. Esatto. E quindi insomma anche lì, quando firmiamo questa documentazione, dobbiamo essere ben consapevoli di quello che stiamo facendo. Allora andiamo un po' a sentire qualche ascoltatore. Giorgio da Padova, buongiorno, questa Vitaliano mi sa che è per te. Sì. Giorgio, buongiorno. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Volevo fare due domande semplicemente al lato pratico. Io sono correntista di una banca e ho un deposito, diciamo così, dei miei risparmi, frutto di tanti anni di lavoro, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto qui, vista tutta la situazione che sta venendo fuori, perché probabilmente siamo ancora alla punta dell'iceberg, come faccio io a sapere se mi devo fidare di mantenere i soldi nella banca X, senza far nomi chiaramente, oppure è meglio che me li porti via a casa e come faceva mia nonna, che ho visto io con i miei occhi, si li metteva sotto il materasso, almeno era sicura di vederli, se perlomeno sparivano, succedeva qualcosa, lei alzava il materasso, magari con un po' di inflazione, eccetera, eccetera, ma si ritrovava, diciamo così, in una maniera visibile. Prima domanda. Lo so, magari c'erano anche delle provocazioni. No, no, ma ha ragione. Il problema è che se qualche ladro viene a sapere di queste bei soldini a casa del... Certo, però forse ci sono, vabbè, sono molto più ladri vestiti cravatta che non quelli che non... Come poterle dar torto, Giorgio? È inattaccabile. La seconda domanda è questa. Queste banche che noi ci appoggiamo, con la banca, con la B minuscola, sia ben chiaro, ma loro non danno delle garanzie alla Banca d'Italia quando fanno questo tipo di operazioni? Se io vado su una banca e chiedo un prestito, 100.000, 50, ammesso lo concesso che me le diano, oltre a farmi anche una colonoscopia, mi chiedono anche tutte le più svariegate situazioni di rimborsi, fanno sulla proprietà, adesso non mi viene il termine, mi scuso, tutte le garanzie possibili e immaginabili. Ma è mai possibile che queste le banche invece fanno tutte queste operazioni con i soldi miei? No, allora, a parte Giorgio, la ringrazio, capisco anche il suo umore, perché effettivamente questo è un grande tema del quale si è discusso. Vitaliano e Moria non c'erano, c'erano molti altri colleghi del Sole 24 Ore, è stato il tema dominante al Forex di sabato scorso a Bergamo, l'appuntamento annuale con gli operatori finanziari, il governatore della Banca d'Italia. Il tema della vigilanza è stato centrale, perché effettivamente il messaggio che passa rispetto a quello che succede nel sistema bancario è che nessuno controlla, che Banca d'Italia non faccia il suo dovere. Per la verità Banca d'Italia fa tutto in grande silenzio, perché questo va riconosciuto, che poi funzionino certi controlli. Ignazio Visco ha chiesto un rafforzamento normativo per dire: io voglio avere la capacità di estromettere di persona un manager che non si comporta correttamente, non voglio fare pressione sugli azionisti della banca affinché loro poi pian piano estromettano questi manager. Per cui in realtà il tema è assolutamente vivo, Giorgio. La Banca d'Italia è ben consapevole dei suoi limiti, li denuncia e vorrebbe appunto rafforzare i suoi poteri. Detto questo, ce la facciamo a rispondere sul tema, magari possiamo cominciare con un minuto. Intanto il sistema bancario italiano è solido, Vitaliano, io mi rendo conto che alla luce di quello che sta succedendo, però insomma non abbiamo tipo di, sulla solidità finanziaria non abbiamo nessun tipo di dubbio. Io vorrei evitare il qualunquismo, perché non si può dire che tutti sono uguali, tutte le banche si comportano allo stesso modo, questo bisogna evitarlo, perché altrimenti veramente poi si cade nella demagogia. E quindi diciamo innanzitutto che, come diceva appunto Valeria prima, chi ha dei soldi sul conto corrente è garantito dal fondo di garanzia fino a 100.000 euro per ogni intestatario. Tra l'altro c'è il sito del fondo, esatto, fondo di interbancario di tutela dei depositi, chiamiamolo sì, ecco, correttamente, così si vanno a cercare tutte le informazioni. La cosa importante è andare a vedere se la propria banca aderisce. Quasi tutte le banche italiane aderiscono, non credo che tutte le banche straniere aderiscono. Quindi se uno ha una banca inglese oppure un'altra banca, è meglio andare a vedere, perché non che non ti garantiscano, ma ti garantisce fanno in base, riferimento alla normativa nazionale, che non è propria. 100.000 come per l'Italia, credo che sia qualcosa in meno per le banche inglesi. Quindi questa è la cosa più importante. Poi è vero quello che diceva l'ascoltatore di Padova, sul sì, discorso dei prestiti che vengono chiesti dalle banche. Allora, le banche italiane, come anche altre banche europee, chiedono prestiti alla BCE, ma la BCE non glieli dà gratis, chiede il cosiddetto collaterale, chiede le garanzie. Poi bisogna vedere sto collaterale quanto sia solido, quanto non lo sia, ma loro quando chiedono soldi in prestito alla BCE, la BCE chiede in cambio un collaterale, cioè una garanzia a questo prestito che fa. Quindi anche loro devono dare delle garanzie. Delle garanzie, appunto. Però ecco, capisco che magari questi concetti siano un po' più di difficile comprensione, anche se uno legge sul giornale che la BCE ha dato tanti soldi alle banche italiane, sembra che si sia messo lì Mario Draghi a firmare assegni a tutti i banchieri italiani. In realtà lo ha fatto con grande severità, e poi lo ha fatto anche in momenti in cui era proprio necessario che effettivamente un po' di liquidità andasse in circolazione, sennò qua ci bloccavamo tutti. Italgas, Italgas, Italpi, Italpi. Ma non sono più neanche quotate queste società, Marco. Aggiornati, cercaci una canzone più moderna con, che ne so, altri titoli, appunto, A2A, Terna, Enel, Banco Popolare, qualcosa di più moderno. Adesso vediamo se qualcuno si inventa qualcosa. Andiamo a Mario dalla provincia di Ancona. Mario, buongiorno. Provincia, che mi dica il nome e cognome del paese, perché sa che io sono di quelle parti, voglio sapere tutto. Io sono di Senigallia. Ah, eccoci qua, dalla spiaggia di velluto. Esatto. Lei da dove è? Lo dico un'altra volta, sono di Castelfidardo. No, ma lei non è di Ancona. Proprio. Provincia anch'io. Mi dica il paese. Castelfidardo, gliel'ho detto. Castelfidardo? Ecco. Io sono di Jesi. Molto bene, dette tutte queste cose che non interessano a nessuno, Mario, ci racconti la sua storia. La mia storia, niente, volevo sapere come si trovava la Banca Marche, perché io sono correntista di lì. Banca. Grazie Mario. Allora, l'abbiamo un po' detto anche all'inizio, la banca ha qualche vicenda un po' sulla quale Banca d'Italia sta facendo qualche verifica. Il 2012 si chiuderà con una perdita molto importante, 300 milioni di euro. Sta continuando l'opera di riassetto del management. Se n'è andato l'ex direttore generale Massimo Bianconi, una fuoriuscita Vitaliano caldamente auspicata dalla Banca d'Italia, per cui anche lì ritorniamo sul fatto che la vigilanza, insomma, viene fatta. Ma la vigilanza viene fatta. Poi ovviamente immagino anche per questioni di stabilità, no? del sistema, la Banca d'Italia non può ogni volta fare dell'allarmismo, altrimenti si creano dei problemi. Perché la vigilanza è anche di carattere prudenziale, certo, ricordiamoci. Ci sono delle operazioni immobiliari molto importanti nelle quali appunto questa banca è direttamente interessata, per cui probabilmente anche questa perdita è riconducibile a queste operazioni. Detto questo, tra l'altro c'è il lancio di un conto di deposito molto consistente, di una remunerazione molto consistente da parte di questa banca, per cui l'attività va avanti tranquillamente, mettendo anche in campo delle iniziative commerciali come stanno facendo tutte le altre banche, per cui Mario, noi ci sentiamo di rassicurarla totalmente. Detto questo però, ecco, mi viene in mente una domanda di questo tipo: quando uno comunque non si sente molto tranquillo perché legge dalla stampa anche di queste ispezioni della Banca d'Italia, perché ragionevolmente possono anche un po' spaventare, no? Una persona. Beh, voglio dire, cambiare banca non è che sia poi così... Sì, magari mi rendo conto che è problematico, uno magari ha un po' di portafogli investito, il direttore che ti comincia a fare pressione, però Valeria, che dici tu? Beh, naturalmente non è un problema, diciamo però che secondo me bisognerebbe farlo soltanto quando veramente ci si sente molto insicuri e ci si rende conto che la situazione è molto critica. Attenzione, così come per la Banca delle Marche, così come per la Popolare di Spoleto, così anche come il Monte dei Paschi, teniamo presente che attualmente non siamo in questo stato e che, ripeto, il vero problema è per chi ha eventualmente azioni soprattutto di queste banche, eventualmente anche, proprio se vogliamo esagerare, obbligazioni subordinate. Però se ha presso queste banche denaro contante o altri valori, altre azioni di altre società oppure altre obbligazioni, non ci dovrebbero essere problemi. Moria Longo, volevo chiederti, tornando a questi 500 italiani coinvolti nell'esproprio dei bond subordinati della banca olandese SNS, c'è qualche studio legale in Italia che sta seguendo questa vicenda e la quale magari qualcuno a cui fosse sfuggito volesse... Sì, c'è lo studio Grimaldi insieme all'associazione ADUC, che stanno fatto già un ricorso, perché quando ha fatto l'esproprio il governo olandese ha dato 10 giorni di tempo per far ricorso nel tribunale olandese, per cui tra sabati e domeniche i giorni non erano moltissimi. Loro hanno già fatto un ricorso con 300 circa risparmiatori. Però ci sono altri studi legali, per esempio Hogan Lovers, che stanno pensando, e lo stesso studio Grimaldi, stanno pensando di fare anche una causa alla Corte Europea di Giustizia o comunque in Europa, perché a loro avviso è stato tutelato proprio il risparmio, cioè è stato violato il risparmio, la protezione del risparmio. Effettivamente l'esproprio, come ci dicevi prima, anche una situazione talmente inedita. No, la cosa anche... curiosa è che nessun altro stato è espropriato, cioè la Spagna, che ha nazionalizzato Bankia, ha gli obbligazioni subordinate, ha dato alla fine circa il 90% di rimborso. Addirittura, sì. Quindi quasi, cioè, tutto. Ha tagliato il 10% soltanto. La banca irlandese, che hanno fatto anche loro una cosa molto negativa, soprattutto nei confronti dei risparmiatori italiani, però avevano dato una prima possibilità. L'Irish, Irish Bank. Hanno dato la possibilità agli investitori che avevano obbligazioni subordinate di fare uno scambio in azioni o in contanti con una perdita, se non ricordo, circa il 75%, comunque il 25% lo recuperava. Il problema nel caso irlandese è stato che non l'hanno comunicato ai risparmiatori, i risparmiatori non ne sapevano nulla, non hanno aderito proprio perché sapevano nulla, e si sono trovati rimborsati di un centesimo per ogni 1.000 euro investiti. Per cui il problema è stato nella comunicazione, ma comunque la banca irlandese una possibilità l'hanno data. Quelle olandesi zero, cioè hanno proprio tagliato. Tanto stiamo parlando dell'Olanda, è uno stato AAA, cioè la Spagna cerca di tutelare i risparmiatori, gli obbligazionisti subordinati, l'Olanda, che ha molti meno problemi come stato, non lo fa in maniera proprio così, senza nessun neanche battere quindi, ciglio. Quando collochiamo in qualche maniera il nostro risparmio, non facciamolo mai delegando totalmente, teniamo un po' tutto sotto controllo, anche se ci fidiamo completamente del nostro consulente, perché è giusto che un rapporto poi si costruisca all'insegna della reciproca fiducia. Comunque non perdiamo di vista i giornali, se abbiamo qualche dubbio andiamo a pungolare Vitaliano. Non voglio fare prodomia, ma abbiamo lanciato questa iniziativa la settimana scorsa di Difenditi con Plus. Perché così i nostri lettori del Sole, di Plus, possono inviarci email a cui noi rispondiamo, risponderemo anche questa settimana su Plus 24, proprio per dargli una mano. E comunque volevo agganciarmi un attimo al discorso delle obbligazioni, ma io non capisco perché italiani, risparmiatori italiani, investano direttamente in obbligazioni, ma proprio perché uno deve anche tenersi aggiornato su quello che accade in Irlanda, in Olanda. È più facile farlo attraverso un fondo obbligazionario, no? O attraverso un ETF che ha come sottostante le obbligazioni. Almeno se uno non ha il tempo, perché non si ha il tempo di raccogliere questa informazione, si delega a un gestore, una società di gestione, a fare questo per te. E comunque il fondo poi magari non dà rendimenti tanto soddisfacenti, ma per natura sua è diversificato, per cui se c'è dentro un'obbligazione della banca olandese SNS che non viene rimborsata, c'è comunque una compensazione a tutti gli altri titoli presenti nel fondo. L'ultima domanda la facciamo fare a Paolo dalla provincia di Milano. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ci scusi se l'abbiamo fatta aspettare un po', eccoci qua. Nessun problema, sono in auto, quindi ho ancora un po' di strada per correre. No, una cosa molto semplice, volevo complimentarmi con la trasmissione e con la persona che ha detto la cosa che ho ascoltato oramai una quarantina di minuti fa, questa, in pratica che per l'investitore, il piccolo investitore comune, diciamo, che non è neanche molto informato su quella che era l'andamento dei titoli, dei bond, di queste cose. L'investimento più sicuro è il buono del tesoro poliennale italiano, che offre anche rendimenti buoni, remunerati bene, e che alla fine ha un rendimento sicuro ed è un investimento fra i più sicuri. Certo Paolo, devo dire che ci sono stati dei momenti in cui non abbiamo avuto neanche la totale certezza di questo, però effettivamente è stato Moria Longo il colpevole di questa dichiarazione, dopo essersi scagliato con forza contro il fenomeno della corruzione internazionale, però effettivamente, beh, anche lì però non mettiamo tutto lì. No, però io non dicevo che i titoli di Stato sono sicuri, io dicevo che le banche pagano rendimenti inferiori a quelli di titoli di Stato pur essendo più rischiose. Questa era la mia frase. Detto questo, io sinceramente direi che nulla è sicuro al mondo. Abbiamo rischiato veramente di seri problemi con l'Italia non più di un anno fa, per cui di sicuro non c'è purtroppo nulla. Non c'è nulla neanche in Germania, perché il Bund rende lo 0%. Se i mercati si riprendono io ci perdo dei soldi, quindi nulla è sicuro, non è sicuro l'oro, non è sicuro, nulla è sicuro, bisogna, come dicevamo prima, diversificare. L'unico modo è non mettere tutte le uova in un paniere. Infatti, allora, tra l'altro, chissà se ci ritroveremo qua un'altra volta venerdì prossimo. Quali casi di borsa dobbiamo tenere sotto osservazione la prossima settimana, Valeria Novellini? Dacci ovviamente qualche... non si può prevedere il futuro. Io penso che si continuerà a parlare in modo particolare di Finmeccanica e di Saipem, perché sono società partecipate direttamente o indirettamente dalla mano pubblica. Per quanto riguarda, che ringrazia oggi del corposo dividendo fornito da Eni, erogato da Eni, esatto. E per quanto riguarda le banche, credo che in realtà il caso Monte dei Paschi sia abbastanza un unicum, perché era una banca che, senza tener conto delle illegalità, aveva problemi già da diverso tempo in termini di patrimonializzazione, per cui diciamo che io da banche non mi attendo niente di particolare. Poi ovviamente non si può prevedere il futuro. Volevo ricordare una cosa per quanto riguarda i titoli di Stato, sia italiani che in questo caso europei. Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2013, con la nuova normativa europea che ha istituito il Fondo Salva Stati, esiste un livello di minore garanzia sui titoli di Stato, che è possibile teoricamente un richiamo da parte degli stati emittenti. È una cosa molto teorica, ma è un livello di garanzia inferiore a quelli emessi prima del 1 gennaio. Benissimo, 2013. Allora magari varrà la pena nel futuro fare anche un piccolo approfondimento su questo. Grazie a Valeria Novellini, a Moria Longo, Vitaliano D'Angerio. Domani vi ricordo Plus 24, il Sole 24 Ore, con le ricette per conservare la fiducia tra i risparmiatori operatore ed intermediario. A tutti buon fine settimana.